caro amico, buonasera. Perché un disco e non una lettera? Abbiamo pensato che un discorso più caldo si faceva voce e che le parole dette sono più espressive delle parole scritte. Non le pare? Adesso, se vuole anche darci il suo personale parere. Caro amico, adesso se vuole anche darci il suo personale parere, giri il disco e ascolti bene.